mani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Nemmeno l'ombra